Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Cercherò di darvi un consiglio su come copiare in qualsiasi compito in classe oppure agli esami di Stato. Tengo a precisare che non l'ho mai fatto, eh? Ma passiamo subito a vedere cosa ci serve. La prima cosa base, nonché il fondamento del nostro metodo di copiatura, sarà un normalissimo dizionario di qualsiasi materia voi vogliate. Il secondo oggetto che andremo a utilizzare sarà un bisturi. Ora non mi chiedete perché io ho un bisturi in mano, però potete usare benissimo un taglierino. E per ultima, ma non meno importante, una stampante per Prendete il vostro taglierino e l'andate a ritagliare sul bordo. Molto attentamente, il più preciso ovviamente possibile. Tagliate da entrambi i lati in modo che... A me sembra un po' concettuosa questa storia di ritagliare col taglierino il vocabolario per riuscire ad avere un sistema informatico di sussidio clandestino all'ignoranza degli studenti. Ma probabilmente chi suggerisce questi metodi è fatto della stessa pasta di coloro che per sfida, per voglia di fare poco o per attitudine personale preferiscono fare i furbi. La notizia di ieri la polizia postale del compartimento di Milano ha denunciato i titolari di una società, si chiama Scuola Zoo, che è uno dei tanti siti che forniscono sussidi informatici agli studenti, perché aveva dato una proposta di aiuto molto diretto, insomma di suggerire le tracce dei temi agli studenti che stanno facendo la maturità. Questo non si può, perché esiste una norma ben precisa che punisce chiunque con qualsiasi mezzo offre di procurare, eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, ovvero sia quello di produrre tali scritti ad esami pubblici. Cioè chi ti dà le soluzioni per passare un esame pubblico compie un reato, perché naturalmente devi farcela da solo. Non so quanto siate voi freschi di maturità o freschi di esami, ma ormai sono tanti anni che gli studenti sanno, ormai lo sanno anche i professori più anziani, più vetero, più incalliti, più legati al mondo antico, che esiste una possibilità di supporto concreto, reale, quotidiano sulla rete, che permette di, durante l'anno, scaricarsi le versioni. Viene data una versione, uno cerca l'autore, cerca il titolo del brano dell'autore da tradurre, sia di latino, di greco o di qualsiasi altra disciplina, e trova la soluzione. I professori più scafati danno appositamente i brani che sanno esistere in questi siti e quindi sgamano immediatamente chi ha fatto copia e incolla e lo segano. Gli altri fanno finta di niente, subiscono. Poi ci si trova in fase di esame. La fase d'esame ha sempre comportato delle attività molto interessanti di bricolage studentesco, costruzione di bigliettini, fogliettini, piccoli supporti, tatuaggi, scritte addosso, collegamento con walkie-talkie, attacchi improvvisi di DRA per andare al gabinetto dove c'era nascosta la soluzione, corruzione di bidelli, manipoli di professori pensionati localizzabili in qualche posto per fare le soluzioni, amici scafatissimi che sapevano che in quel tal consolato per il fuso orario le prove d'esame si aprivano un'ora prima e quindi telefonavano all'amico dell'amico, della zia, della nonna e avevano una soluzione. Insomma, di fronte a tutto questo c'è oggi la più semplice delle soluzioni: ci si collega ai siti specializzati e si hanno comunque a tempo reale le soluzioni. La versione di greco che fa mio figlio questa mattina già l'ho trovata in rete, e mia moglie ha detto: gliela mandiamo via WhatsApp, ma so che il telefonino gli hanno sequestrato e se la vedrà lui saranno fatti suoi. Voi come la pensate? Come avete risolto il problema? Vi rendete conto che i vostri figli possono anche fare a meno di studiare durante l'anno, e se sono tecnologicamente avanzati oggi avranno comunque uno smartphone nascosto da qualche parte, ficcato dentro lo scarico del gabinetto, dentro il cellophane, quindi avranno modo comunque di vedere quello che qualcuno per loro ha già messo online? 800 24 00 24. Secondo un sondaggio di studenti.it realizzato in collaborazione con SVG e a cui hanno partecipato 1418 giovani, il 63% degli studenti che affronteranno la maturità cercherà di tenere un cellulare con sé per comunicare con l'esterno. Alla domanda "seconda prova di maturità, qualcuno cercherà di aiutarti dall'esterno?" il 47% dei maturandi ha risposto di sì. Cercherà di tenere con sé un cellulare per cercare autonomamente tracce e soluzioni sul web. Per il 10% degli intervistati il cellulare servirà a comunicare con un familiare all'esterno, mentre per un 5% dall'altra parte del telefono ci sarà un amico. Il 37% infine conterà solo sulla propria preparazione. Ecco, certo, capisco l'importanza di avere uno smartwatch in questo momento al mio polso e mi sento molto figo rispetto agli studenti che dovranno nascondere il secondo cellulare chissà da qualche altra parte. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Innanzitutto il tuo punto di vista, tu appartieni a una generazione che queste cose da professore le vedrai o le avrai immaginate o comunque ne avrai una conoscenza molto più diretta. Beh sì, all'università la maggior parte degli esami che faccio sono in forma orale, quindi in realtà non ho questa esperienza. Ce l'ho quando, per il periodo in cui ho segnato al liceo, era l'alba del 1997-98. Quindi ancora c'era ben poco, diciamo. Però già si vedevano, soprattutto la maturità, il tentativo di nascondere cellulari, tacere, insomma, ecco. Di fatto è chiaro che a differenza del passato, ricordo che un amico quando io fece la maturità cercò di mettere insieme una specie di apparecchio radio per ricevere istruzioni dall'esterno, esperimento fallito peraltro. Ecco, a differenza del passato, oggi quello che conta è il numero, cioè nel senso che se vuoi lo studente può avere effettivamente, può cercare di avere uno strumento che effettivamente gli permette di comunicare con l'esterno. Questa direi è la grande differenza rispetto al passato. Ecco, siccome a noi ci piace poi capire, immaginare, studiare, come ieri abbiamo immaginato cosa potrebbe accadere se qualcuno incrociasse il DNA obbligatorio per tutti con le altre banche dati e veniva fuori un disastro, immaginiamo una società del futuro in cui non ci sia possibilità di stabilire un segnale jamming di disturbo, il sequestro del telefonino, insomma si dà per scontato che ognuno ce l'ha quasi incorporato, diciamo, il sistema per collegarsi col mondo esterno. Cambierà un po' anche la percezione della prova, dell'individualità della prova e della capacità di acquisire strumenti individuali di sapere? Ma come abbiamo sempre detto in questa trasmissione anche altrove, Gianluca, quello che sta cambiando è la maniera in cui noi ricordiamo. Nel senso che fino ad oggi per passare un esame bisognava ricordare a memoria una serie di cose, o negli esami più complicati, ad esempio quando uno fa l'esame per diventare avvocato ha ad esempio i codici a disposizione, per dire, no? Quindi più si va avanti in realtà più si ha materiale a disposizione. La verità è che quello che si deve imparare è la capacità a gestire. Ti ricordi che i vecchi colleghi materiali degli istituti tecnici non potevano portare la calcolatrice, non fare i calcoli, certo, con regolo? Certo, bisogna fare i calcoli con regolo, addirittura le prime calcolatrici che facevano i grafici di funzione, no? Perché alcuni degli esami di matematica per studi di grafici di funzione erano vietatissime. Ricordo quando all'università ho fatto ingegneria, queste calcolatrici, parlo della metà degli anni Ottanta ancora, queste calcolatrici che erano già di pure tra gli studenti di ingegneria erano vietatissime ovviamente. Lo studente qui ovviamente non impara più a memoria l'algoritmo, no? Non impara più a fare l'operazione. Io credo che nessuno degli studenti attuali ricordi a memoria come si fanno le radici quadrate, ad esempio, cioè l'algoritmo con il quale si estraggono le radici quadrate. Io già quando vado oltre l'addizione e la sottrazione comincio ad avere dei problemi con la divisione. Però Gianluca, alla fine della scuola media noi questa cosa dobbiamo farla, perché meno male ci erano costretto a estrarre a mano, diciamo così, no? O al limite usando le tabelle, no? C'erano questi. Cioè, a me sembra impossibile che io sapessi fare gli algoritmi, estrarre. Mi sembra impossibile, oggi non saprei nemmeno, e poi lo facevo. Eppure così. Questa in realtà probabilmente ci ha dato una forma mente, insomma, una certa elasticità mentale che effettivamente agli studenti moderni forse viene a mancare, sostituita chissà da qualcos'altro, noi pensiamo, anche se non sappiamo bene ancora da che cosa. Sentiamo Marcello, un secondo. Marcello, buongiorno. Ciao, buongiorno. Un ricordo del passato. Il ricordo del passato è nel 92 quando io mi diplomai in liceo scientifico, esame di maturità, scritto latino la versione, mi ricordo che scrissi il dizionario con un rapido graph 03, non so se vi ricordate i vecchi tempi, circa una decina di versioni, impiegai 3-4 notti a fare questo tipo di lavoro che immancabilmente non trovai il giorno dell'esame. Beh, 10 sono poche, sì. Era un po' poco. Sì, pochissime, era la scommessa, era molto forte, però era il fascino comunque di arrivare e guardare quel io avevo fatto un azzardo familiare, in effetti mia moglie aveva beccato che avrebbe dato Luciano oggi, non so come ha fatto, aveva beccato, io ero su altra strada, però è poco sapere l'autore, poi bisogna sapere quale versione di quell'autore. Assolutamente, assolutamente. Era il fatto di vedere, avere oggi quel dizionario di latino e non veder l'ora di mio figlio darglielo in mano e non riuscire a fargli leggere nulla, perché chiaramente è tutto scritto tra le righe. Anche il dizionario mi sembra uno strumento così obsoleto, antico, quel volumone. Basterebbe un traduttore, un'applicazione che già esiste, portarsi dietro quella. Roberto, buongiorno. Buongiorno, salve. Sì, che succede? Sì, io la chiamavo appunto per fare l'esame di maturità. Come il signore di prima, ho preparato tutta una serie di foglietti, solo io ho fatto l'istituto tecnico aeronautico, quindi riguardava ambito aeronautico, e ho preso poi il brevetto, sono diventato pilota e un giorno ho avuto una avaria abbastanza seria e ho perso completamente l'impianto elettrico. E allora, per aiutarmi a tornare indietro, ho dovuto tirar fuori il regolo famoso che nominava prima, e nel regolo ho ritrovato i bigliettini mai più aperto dall'esame, logicamente. Ho ritrovato i bigliettini che avevo preparato per l'esame. Ma lei ogni volta che andava in volo si portava il vecchio regolo completo di bigliettini? Sì, no, ma non l'avevo più toccato, cioè lo portavo per scaramanzia, ma non l'avevo più toccato da 15 anni. Era ancora farcito con i bigliettini della maturità. Esatto, e mi hanno portato a terra, devo dire la verità. Mi hanno aiutato con i famosi algoritmi. Le è andata bene, cioè che quei bigliettini si li cuciva nelle mutande e non è che tutta la vita non poteva cambiarsi le mutande. Grazie, Fabio. Fabio, buongiorno. Buongiorno, sì. Io ho la soluzione, costa pochi euro, si potrebbe fornire ad ogni professore, lo Stato li compra, si chiamano dispositivi jammer. Ma non è che costa proprio pochi euro, costicchio. No, quelli piccoli che saturano una stanza o un'aula costano pochi euro. Quelli cinesi che non funzionano, mi creda, l'ho studiato. No, ma ce n'è qualcuno, io l'ho sperimentato in un vagone ferroviario, in un treno e non telefonava più nessuno, abbiamo fatto delle prove con gli amici. Però lo sa che non si possono usare. La legge non vuole che si usi. Siamo in un locale pubblico, se quel genitore ha bisogno di parlare col figlio, come fa una volta, telefona a scuola e chiede del figlio. Sì, ma ci sono delle aule scolastiche, so che in particolari concorsi usano il jamming. E allora? Perché in un esame di Stato, di maturità, si usa il jammer, basta. Infatti non ci sarebbe problema. Andrea Rossetti, su questi dispositivi hai qualcosa da aggiungere? Sì, qualche problema c'è. Allora, innanzitutto il segnale del jammer non è circoscrivibile con precisione, no? Quindi, ad esempio, quando si fa la maturità sono centinaia di persone insieme. Blocchi tutto l'istituto, magari. Non solo l'istituto, ma anche tutte le cose che stanno intorno, perché molte scuole in Italia sono nei centri delle città, quindi si corre il rischio di non fornire servizio a centro città, e questo è completamente illegale. A Roma accade quando passi davanti ai ministeri che ti stacca tutto i telefoni, però. Certo, in determinati contesti è ammesso per legge. Tu prova a telefonare a Piazza Colonna e vediamo cosa succede. Non ancora nelle scuole, voglio dire, dovrebbe essere modificata la legge. Melog, cronache meridiane. Devo dire che un po' io sono appassionato della risumazione di antiche liturgie, come se non c'è una trasmissione orale di quello che accadeva, poi se lo dimenticano. Io se parlo con mio figlio e gli dico cosa fu per me la maturità, di arzigogoli studiati attentamente con una sorta di ingegneria da sottobanco da mesi prima, non ci crede, cioè, ma che eravate scemi. Oggi di questo abbiamo prove tangibili dalle telefonate dei nostri ascoltatori. 800 24 0024. Stefano. Salve, buongiorno. Lei cosa mise a punto per la maturità? Io preparai, io e i miei amici, una cartucciera. La classica cartucciera. Cartucciera attorno alla pancia, tutto foderato di centinaia di testi, foglietti, di tutto e di più. Con una rubrica dall'A alla Z, da sapere che nel primo foglietto c'è dall'A alla tutte le testi che iniziano con l'A, al secondo scomparto B e C, terzo e quarto e così via. Fino alla fine, praticamente, a livello di italiano riuscì a cogliere il testo, poi invece le materie tecniche no, perché era impossibile, perché gli argomenti erano... Quindi è stata utile in parte la cartucciera? Sì, ancora la conservo, perché un domani è un concorso, qualcosa mi capita, insomma, ma poi ho capito che insomma è stato uno sbaglio, però ormai è fatta. Sì, andava molto dalla maturità classica anche, diciamo, dei sunti, dei verbi regolari, del pechenino, questi testi che non si potevano portare dietro e qualcuno se li portava dietro, però se no le formule per chi faceva degli studi di tipo scientifico, però sembrava più quasi un apparato che serviva a... convogliare le forze del bene sulla propria prova. Tutti sapevamo sarebbe stato difficilissimo infilare la mano e tirar fuori da posti innominabili il bigliettino, e nei pochi istanti che sorvegliate e piantonati andavamo in bagno. Sì, certe sudate enormi, perché poi il momento che passava ti sgamava. Sì, l'adrenalina era 100.000, infatti, chiaro. Con la camicia lunga fuori, perché poi non dovevi essere vestito in un certo modo, quindi tu giorni prima di prove, di attenzioni, di situazioni, insomma. Una cosa da non credere, penso. Meglio studiare forse alla fine. Si era farciti come dei kamikaze di tritolo, solo che avevamo cartuccelle. Rinaldo, buongiorno. Oh, finalmente, Gianluca, finalmente riesco a parlare. Ho 83 anni e devo dire che c'è un abisso. Approfittane, che non è che c'è tanto tempo, dai. Un abisso, mi spiace che l'abbiano relegato in questa mezz'oretta. Comunque volevo dire che ai miei tempi non c'era la televisione, non c'erano tutti i marchingegni che ci sono adesso, e si faceva tranquillamente la nostra maturità con quello che si sapeva, senza bisogno di tanti sotterfugi. Cioè, una volta si studiava, questo diciamo è il passo avanti della nostra civiltà, che oggi non c'è più bisogno di studiare, ecco, questo è il... Noi studiavamo il come, solo che non avevamo bisogno, andavamo a fare l'esame con quello che sapevamo e con quello che avevamo studiato. E quindi non c'era nessun, diciamo, noi abbiamo vissuto un'era intermedia della truffa scolastica, esatto. Prima nemmeno ci si pensava, questo è interessante. Andrea Rossetti. Sì, effettivamente le cose sono molto cambiate rispetto ai bigliettini, perché appunto li abbiamo fatti tutti, credo. C'erano addirittura a un certo punto delle edizioni di manuali piccolissimi. Sì, mi ricordo, stampati a font 0,5. Esatto, oggi mi domando come riuscivo a leggerli. La differenza grossa qual è? È che lì dentro spesso noi non trovavamo la soluzione, appunto, perché non si poteva, anche le formule non aiutano più di tanto. Oggi invece con questi strumenti io posso effettivamente sperare in un reale aiuto rispetto a quello che faccio. Direi che la differenza forte è proprio questa. Anche qui avere davanti una forma, ad esempio io gli studenti li interrogo con davanti i loro appunti, perché comunque non è quello che fa la differenza. Se uno non ha studiato, gli appunti davanti non gli servono francamente a nulla. Ecco, io credo che i nostri studenti del futuro dovranno imparare più che altro a gestire la quantità di informazioni che hanno davanti, a sfruttare la capacità di informazioni che inevitabilmente ricoprirà anche in questi contesti, e quindi forse... Quindi cambia anche l'atteggiamento poliziesco degli insegnanti nei confronti degli studenti. In qualche modo forse sì, non è tanto rassegnarsi quanto direi rendersi conto che gli strumenti che gli studenti hanno a disposizione appunto nel pomeriggio quanto studio sono completamente diversi da quelli che avevamo a disposizione 15-20 anni fa, insomma. Io ancora non capisco perché una prova in classe debba essere ancora consegnata scritta a mano. Questo... Sì, poi ancora in tutti i concorsi scritti a mano, questa è la follia. È la follia. Ancora... Non è molti anni, no, che l'esame per diventare giornalisti si fa sul computer. E fai, io l'ho fatto sulla lettera 22, l'ho fatto, ridicolo. Mi venne una sudarella terribile, perché non scrivo più almeno da 15 anni a macchina. Esatto. Mi aggrovigliava il nastro, mi sporcavo tutto, il bianchetto, è stato un incubo per me. Eppure solo con quello poteva essere fatta la prova d'esame. Poi anche metodo, oggi nessuno scrive più in maniera lineare e sbianchettando, oggi esatto. Scrivi di getto, poi cambi, sposti, copi, incolli, cambia proprio il metodo, è come camminare o andare coi pattini a rotelle, è la stessa cosa, non si può più. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Vicenza, ho 27 anni, quindi la maturità l'ho fatta da non molto. E, diciamo, per me copiare è stata un'emerita cazzata, anche se pensavo che fosse difficilissimo la sorveglianza e tutto il resto. Io sono sempre stato super secchione, però la seconda prova matematica, io liceo scientifico e quindi matematica era la mia materia, non sapevo nulla, panico totale. E l'arma letale per la mia seconda prova sono stati i post-it, che adesso, insomma, con tutta la tecnologia che c'è adesso, il post-it comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Beh, è stata una buona invenzione, perché si evitava di tagliare con le forbici le cartuccelle. Ma in effetti, no, perché è stato proprio totalmente improvvisato, non avevo programmato niente, né cartucciere, né cose, avevo semplicemente cannato l'esame, non sapevo. Il post-it ho scopiazzato tutte le domande. Dico, per far capire quanto mi manca la memoria, mi corregge giustamente un ascoltatore, si tratta di logaritmi, non di algoritmi, è vero, è che oggi ho più che fare con algoritmi che logaritmi. Sì, era la tabellina dei logaritmi, per me è una cosa che oggi non so nemmeno saprei definire, allora sapevo comunque ricavarli. Prego, scusi, Giovanni. Bellissimi i logaritmi, grandi, appunto liceo scientifico. Comunque, ho scopiazzato tutto l'esame in un post-it, l'ho incollato, ma proprio palesemente in classe, non mi ha visto nessuno, vabbè, in fondo alla classe, pum, copiato mio compagno, mi ha copiato tutte praticamente il compito e ho preso un bel 12 su 15 e devo ringraziarlo tutta la vita. Ma sì, uno dei sistemi era quello più brutto, c'era la coercizione del secchione che si minacciava con terribili ritorsioni se non ci passava la versione. A quel punto era semplicemente ottenere un foglietto dal lavoro di un altro. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Niente, io telefono da Catania, non lo so se anche questo fenomeno si sviluppa anche nel resto della nostra penisola. E lo spieghi? Niente, che mia figlia, ovviamente senza nome, fa l'insegnante in un parificato in una scuola questa privata. E l'anno scorso gli hanno imposto, il dirigente ovviamente, di mettersi lì, fare il compito, e poi c'era quella che faceva le fotocopie, che le passava ai ragazzi, eccetera. Ovviamente la commissione era corrente, secondo me. Ma cos'era? Un concorso per cosa? No, non era un concorso, erano degli esami in una scuola parificata, scuola scientifica. E c'era un'organizzazione scolastica per fare le fotocopie agli studenti, perché? Devono passare per forza. C'erano dei dirigenti, ovviamente. Ma pagavano gli studenti? E gli studenti pagavano per avere questo servizio? No, non pagavano. Però evidentemente dovevano necessariamente essere a tutti i costi promossi. Evidentemente era questa la missione della scuola, quelle scuole in cui ci si iscrive per essere promossi a tutti i costi, perché la retta è notevole. Grazie Andrea Rossetti, grazie alle testimonianze degli ascoltatori.